Non mi spaventa più l'amore, io non ne ho più paura. Lo grida ora la mia vita col fiato che mi brucia in gola. Non voglio stare qui da solo in questa terra nuda. Qualcuno che sulla pelle, sulla soglia di te mi perdo. L'hai cambiato tu passando accanto al mio dolore. Dammi il tuo respiro.